Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Ok, Xavier Rad ti avrà anche influenzato, ma tutta questa è tutta farina del tuo sacco, chiaramente. Non c'è, cioè, l'influenza sì, questo musicista australiano che ti ha aperto il mondo, però i pezzi sono scritti da te. Ma sì, io credo che ci possano essere magari esperienze, visioni, suoni che ti accendono una scintilla, poi... Poi insomma ognuno va per la sua strada. Esattamente, ognuno va per la sua strada. Dobbiamo sottolineare questo, cari ascoltatori. Questo insieme di suoni sono fatti da qui presente Matteo e dall'amico suo batterista, praticamente. Possiamo citare. Assolutamente, il disco effettivamente è intitolato come Matteo Toni. Però Matteo Toni è effettivamente una band. Ai minimi termini, perché è formata solo da due persone, però... sento che oggi ha assunto totalmente l'assetto di una band. Alla batteria c'è quello che presento come mio fratello ai concerti, che è Giulio Martinelli, che effettivamente condivide con me il palco e ha condiviso con me la realizzazione dell'album. E, l'esperienza con Giulio dura da ormai da 2-3 anni e insieme abbiamo registrato anche l'EP, che è stato prodotto da Molteni. Una volta si chiama Molteni. Esattamente, il primo EP che dicevamo all'inizio dell'intervista, Qualcosa nel mio piccolo, è stato prodotto effettivamente da Molteni. Che adesso ha il nome suo originale, chiaramente. Che adesso esce con il nome di Umberto Maria Giardini. Esattamente, che è il suo nome ufficiale. Molteni però una volta si faceva chiamare Molteni perché aveva cominciato la sua carriera come Molteni. Sì, sì, dicevamo prima dell'intervista si faceva due chiacchiere, vero Maurizio? Sì. Ti dicevo che effettivamente sono stato onorato, molto molto felice di poter collaborare con Umberto, perché nel panorama italiano degli ultimi 10 anni l'ho sempre considerato una punta di diamante, e quindi avere la possibilità di essere in studio insieme, di poter lavorare insieme, è stato effettivamente molto molto stimolante e interessante. Ritornando a questo pezzo, avete lavorato molto, mi dicevi che c'erano quattro amplificatori che davano un certo senso alle cose, ampliavano il suono, e un sacco di sovraincisioni, un po' di sovraincisioni. Sia nell'EP, quindi nel lavoro che abbiamo fatto con Umberto, sia in Santa Pace, ci sarei poi arrivato dopo a parlare del produttore, che invece è Cooper, Antonio Cooper. Che è fondamentale, qua è fondamentale, come fonico e come produttore è fondamentale. Assolutamente, il lavoro di Santa Pace è stato un lavoro a sei mani, che dicevo insieme a Giulio, io, Giulio Martinelli e Antonio Cupertino. E nel brano che avete sentito, insomma, come anche nel resto del CD, ci sono effettivamente due strumenti che suonano, e poi c'è l'ausilio di qualche altra sovraincisione di chitarra che aiuta a dare un suono un po' sporco, decisamente sporco. Sì, noi abbiamo ricercato il suono che più ci potesse piacere, ci potesse convincere per questo tipo di lavoro, e questo suono effettivamente è un suono, per certi versi, per alcune canzoni molto grosso. È molto grosso. Che è stato ottenuto, come dicevi tu prima, con l'aiuto di diversi amplificatori. Sì, che danno aumento, allargano considerevolmente. Sai, dal vivo possiamo allargare considerevolmente sul palco queste sonorità. Sì, anche sul palco si può fare, perché in effetti adesso uso due amplificatori insieme sul palco. Un sacco di aggeggi, praticamente. Diciamo che se sei in studio forse è un po' più semplice, perché normalmente portare diversi amplificatori sul palco diventa sempre più... A meno che uno non abbia tutta la serata per sé o molto tempo, certo, per poter fare i suoni, certo, diventa abbastanza problematico. Anche però... pesante dal punto di vista fisico, perché esatto, non pesano poco, sicuramente. No, e non abbiamo nessuno che ce li porta. Esatto, per cui... non siete così famosi che avete chi vi porta le cose. No, assolutamente. Però è interessante il discorso dell'ambientazione. No, hai perfettamente ragione. La ricerca del suono, a mio avviso, nel mio immaginario, è fondamentale. E quindi c'è stato un lungo lavoro prima di arrivare ad avere suoni di questo tipo, che così sono studiati per essere anche riproposti dal vivo in una maniera molto simile. Santa Pace sono 10 pezzi, sono collegati uno tra l'altro? Sì, assolutamente sì. Direi... possiamo dire un concept album, tra virgolette, possiamo dire questo? Sì, usando un termine magari più diffuso qualche tempo fa. Io ho una certa età, caro Matteo, però no, io ho apprezzato diversi concept album, per cui pensare a questo primo disco di Matteo Toni come un concept album mi sembra una terminologia molto appropriata. e gira forse tutto intorno al concetto del, appunto, del titolo, del che titolo. Poi mm. È anche il titolo della terza traccia. Sì. Che, se vuoi, ne parliamo dopo, perché sì, la faremo più avanti. Cosa facciamo adesso dal vivo, visto che sono le 22 e 24? Adesso cominciamo, apriamo la finestra sul live, che è più bella cosa del mercoledì, è la, proprio, la cosa più importante, fondamentale. Il live è sempre fondamentale, il live. Il mercoledì ancora di più, forse. Beh, non so, dimmi, Matteo. Pensavo di proporvi un brano che si chiama Isola Nera, che è la seconda traccia del CD. Perfetto. Oh, abbiamo sentito Isola Nera. Per i nostri ascoltatori che non avevano ancora capito come questo suono, adesso me lo rifai, così sentiamo quale strumento lo fai, con quelle, come si chiama questo aggeggio? Adesso lo ripiloghiamo, perché è abbastanza complicato, ma anche semplice innanzitutto. Dimmi. In realtà è uno strumento molto semplice questa chitarra. Nessuna delle corde tocca il manico, ma il suono viene prodotto da una compressione di questa barra metallica sulle corde. Eccola qua. In questa maniera. Tu non usi il collo di bottiglia, allora? No, in realtà. Come mai? Perché si usa anche il collo di bottiglia. Sì, si usa anche il collo di bottiglia, ma è preferibile usarlo sulla chitarra tradizionale, quindi la chitarra che si suona normalmente. Perché penso per una questione di comodità, perché per l'uso in orizzontale questo è un po' complicato, chiaramente. Diciamo si può tenere meglio fra le dita. Esattamente. Quindi ha un suono particolare, ma molto bello, anche visivamente è interessante come suoni. È molto bello da vedere. Cari ascoltatori, con le fotografie che poi faremo potete darvi un'idea di come si suona. In ogni caso, questa Isola Nera, dobbiamo sottolineare che i primi dischi, i primi 4-5 pezzi dell'album sono un po' più mossi, un po' movimentati, più cupi, mentre gli altri sono più acustici. Come mai questa differenziazione voluta, chiaramente? Sinceramente abbiamo fatto questo disco forse un pochino più... come si faceva una volta, senza stare troppo a preoccuparci che assumesse un genere particolare. No, un genere, cioè un effetto particolare, un po' più movimentato, più cupo, più roots nella prima parte, più acustico nella seconda parte. Sì, perché effettivamente sono storie, ognuna delle quali ha un suo modo di essere raccontata. E quindi non avevamo... né io né Giulio né Cooper e il produttore non avevamo un'idea ben precisa di voler dare un suono netto. E quindi ci sono canzoni come magari Acqua del Fiume o Fidati che sono delle rivelazioni d'amore, delle canzoni più soffuse o più intime che mi pareva riuscissero meglio in una chiave più acustica. Però Isola Nera è un blues fondamentalmente. Sì, questo sì, forse tutte sono un blues. Sono chiaramente fatto in questo momento in dimensione acustica, lo abbiamo diventato scheletricamente, è diventato un blues. Certo. Nella fase da disco è un po' più movimentato, un po' più suonato. Assolutamente più distorta. Esattamente. Più... Beh, il distorto è molto bello, secondo me. Grazie. Io amo molto le distorsioni. A una certa età, ripeto, Marco lo sa, noi siamo legati a determinate distorsioni. Allora accendiamo l'ampli, così dici. Esatto, una cosa si potrebbe anche fare. Benissimo, abbiamo sentito Isola Nera, che è la seconda traccia del disco, Santa Pace. Ma l'idea del progetto, prima c'è stato un EP, quindi con Molteni che l'ha prodotto, poi l'idea del progetto si è sviluppata, siete andati avanti a sei mani, come tu mi hai detto. È stata una cosa faticosa allontanarsi dall'EP e portare avanti un progetto di 10 tracce. Diciamo è stato faticoso la realizzazione di questo Santa album Pace. Per una serie di faccende anche personali che sono successe durante il periodo della realizzazione, che hanno coinvolto noi tre. E quindi è stata una registrazione che si è prolungata per molti mesi. In realtà abbiamo registrato pochi giorni e molto lontani gli uni dagli altri. E dal punto di vista così artistico del concetto che c'è alla base di questo disco, sono in realtà canzoni che sono una sorta del prolungamento di quelle che erano già presenti nell'EP. Forse si potrebbe anche aver pensato a un unico grande album che le conteneva tutte quante, forse anche per un discorso di tempistica, di realizzazione o di concepimento di queste tracce. Però è andata così. È andata così, si vede che doveva andare così. Noi siamo assolutamente molto soddisfatti di questo risultato, che come ti dicevo dal punto di vista sonoro è e lirico è come lo volevamo. Sì, esattamente, il suono è bello, il suono è bello, è interessante, quello è importante, è stato perché sottolineato nelle recensioni che il suono, cioè, suona bene, è un EP di esordio, un disco di esordio, l'EP è d'esordio anche quello, però disco effettivamente completo, è una bella cosa. Maurizio, è un disco con le idee chiare. Ecco, è un disco con le idee chiare, sicuramente. E hai detto però una cosa che comunque comporta anche un complimento speciale a Antonio Cupertino. Esatto, volevo arrivare al fonico, al produttore. Cosa ti ha dato in più? Ma guarda, allora Cooper l'ho conosciuto durante la registrazione dell'EP, dove si è limitato a fare esclusivamente il fonico, perché il produttore, come dicevi tu, lo faceva Molteni. Invece in questa seconda veste lui è riuscito a, al di là del discorso di impostazione dei suoni, e ci ha dato anche consigli alcuni sulla stesura, sulla stesura dei brani, sulla pronuncia di determinate parole, sulla metrica di determinate frasi, cose che sinceramente magari io non mi sarei aspettato di confrontarmi con lui su questi aspetti, invece sono stati molto molto utili. Un fonico dalla grande esperienza, dobbiamo sì, spiegare qui. Sì, appunto, quindi un produttore. È un produttore a tutti i sensi, esattamente. È una persona molto molto abile dal punto di vista professionale dietro i pomelli, ma è anche una persona con la quale c'è stata subito un'affinità umana e di gusti musicali, per cui per lui tirar fuori determinate atmosfere musicali che appunto erano molto nella nostra direzione non è stato assolutamente difficile. Questa cosa insomma ha portato al risultato che abbiamo ottenuto. Lavoro fatto a fabbrica praticamente da Bologna praticamente. E allora? Allora l'idea doveva essere fatta così, poi le cose sono state leggermente diverse. In realtà dunque hai citato la fabbrica è l'etichetta che insieme... Però era anche un studio di registrazione originariamente. Non lo so se fosse uno studio di registrazione che si chiamava La Fabbrica, comunque abbiamo registrato il lavoro alle Officine Meccaniche a Milano. Quindi quelle di Pagani. Esatto, quelle di Pagani, che è uno studio a dir poco strepitoso per tutta. Sei stato emozionato ad entrare nelle Officine Meccaniche di Pagani? Ma devo dirti la prima volta sì. Come Abbey Road a Londra praticamente. Esatto. È un Abbey Road italiano, possiamo dire così. Ma è stato un luogo in cui tantissime formazioni italiane, tantissimi artisti hanno realizzato i loro dischi negli ultimi 20 anni, forse anche di più. Per cui insomma non ti nascondo che magari entri e ti capita di incontrare magari un viso conosciuto, un artista che sta registrando nello studio a fianco al tuo, ed effettivamente questo ti fa sentire, dici ah cazzo però sei arrivato là. Poi al di là di questa cosa, che effettivamente è una cosa se vuoi anche banale, c'è una strumentazione incredibile, degli ambienti anche dal punto di vista proprio edilizi, quindi lo stesso pavimento che ci poteva essere negli anni 70 quando era ancora una balera, piuttosto che le porte con i rivestimenti in pelle come sono state lasciate così da 30 anni a questa parte, e un sacco di immagini, di quadri uno più bello dell'altro, di fotografie che ritraggono alcuni pezzi della nostra storia musicale che hanno registrato lì dentro, quindi sicuramente ti colpisce l'ambiente, senti che lì dentro ci hanno respirato in tanti. E ti favorisce allora? Sì. Ecco, questo è importante. Ti favorisce, respiri meglio. Assolutamente, sì, sì, sì. A noi ha fatto un effetto, io direi, molto positivo. È chiaro che la cosa importante sono poi sempre le persone che hai realmente al tuo fianco. Questo è chiaro, carissimo. E quindi, insomma, quello fa tutto. Si può fare un ottimo disco anche qui dentro, ma certo, anche stiamo suonando benissimo qua dentro. Non siamo all'officina di Pagani, siamo qui a Blue Radio Veneto stasera a Padova, 22:38, assolutamente live. Adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Ti ricordi la traccia? Sì, perché è qua davanti. Ascoltiamo il primo brano del disco, che si chiama Bruce Lee vs Kareem, che ha riscosso molto interesse a noi e al nostro direttore artistico Alberto Pisco. Hai un po' movimentato le cose, ma adesso lo sentiamo, okay? Volentieri. Rock Wave Live. We'll be right back. plutonio e uranio. Qualche altra merda in Pakistan mi vendono fiori accenditi ai bordi di questa dannata autostrada. Autostrada. Auto bombe tipo video che infrode. Poteri alle lamie, noi le rane spacciate. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, questo pezzo iniziale dell'album Santa Pace ci ha sconvolto nel senso positivo, ci ha fatto muovere. Una bella idea, queste chitarre. Solito discorso, giustamente Matteo gli diceva, ma i Beatles cosa hanno fatto? Non hanno cominciato a ragionare, a inventare. Ricordate l'album bianco, cari ascoltatori? Nell'album bianco ci sono tutte queste sperimentazioni. Si parla del 1970, non si parla del 2013. Quindi... Ma sì, diciamo, per allacciarci al discorso che facevamo prima sul fatto che fosse un album che spazia da suoni più grezzi, più infuocati, fino a ballate acustiche, come ti dicevo, non ci siamo posti il problema, nel senso che ci sono testi che prevedevano atmosfere più rock, più infuocate, più infuocate, sì, fino all'uso di fuzz, di pedali che distruggono il suono, e altri che invece avevano bisogno di un suono caldo. La necessità oggi probabilmente più di un tempo di dovere per forza accomunare un artista a un filone, a una linea, a un genere, non, sinceramente non mi ha mai sfiorato, non mi ha mai interessato. E, anzi, quello che penso è che invece una parte comune, anzi importantissima e omogenea, c'è nel disco: sono suonati tutti dagli stessi due persone, da una batteria e da una chitarra. Dici poco, quindi adesso però mi potresti percuotere le mani se dico che il primo momento mi ricordava Beck, l'intro. Ma guarda, è un complimento per me. The Loser, famoso singolo, esatto, che ha catapultato Beck in tutte le classifiche mondiali. Bellissimo pezzo, tra l'altro. No, straordinario. No, l'ho adorato quando uscì. E... No, è assolutamente un complimento. E beh, pensi anche ai dischi di Beck, quanto sono stati vari o al loro interno. Non si può dire varissima, sono vari totalmente. E anche la sua carriera discografica, tra un album e l'altro, è un altro artista che non si è posto il problema di seguire necessariamente le proprie orme, no, e di ripetersi e di... perché aveva un pubblico che si aspettasse una determinata cosa. Per cui, voglio dire, noi come esseri umani cresciamo dal punto di vista fisico, invecchiamo, non necessariamente siamo uguali a quelli che eravamo, certo, anzi molto certo. Spesso siamo un po' diversi. Ma è bello musicalmente che siamo diversi e che dobbiamo andare sempre avanti. Certo, se stiamo sempre fermi le cose sono un po' limitate. Già, il primo, come abbiamo parlato di questo primo pezzo, molto interessante. L'idea, tu mi hai già spiegato, ma l'idea primordiale di fare questo pezzo qua, l'idea di queste sonorità, è nata così fra voi due? O sì. il fonico ha detto no, facciamo così? Guarda, l'idea di alla base di Bruce Lee è un brano che in realtà ha impiegato almeno un paio d'anni a nascere, a svilupparsi. Aveva lo stesso testo che scrissi ero all'estero, stavo facendo, ero in vacanza, e il testo venne abbastanza digetto, ma la musica partiva in realtà da una composizione molto più complessa, e poi piano piano nell'arco dei mesi si è sempre più snellita fino ad arrivare ad un blues semplicissimo, perché al di là del suono graffiante, la parte che ci sta sotto è una cosa molto semplice. Adesso Matteo lo fa sentire. È un blues, sì. È una cosa molto semplice. Quindi, ok. Stiamo valutando che c'è molto riverbero. Sì, esattamente. Cioè, aumenta, allarga. Beh, è una bella cosa, perché allarga la considerazione musicale tua, il suono dal vivo. Siamo al 22:48, assolutamente, esatto. Tutto live, c'è poco da fare. Quindi avevi detto che è cominciato così, si è sviluppata così. È una cosa interessante, secondo me. Ci è voluto un po' di tempo, però siete arrivati a dire. Ma sì, ci sono canzoni che impiegano una sera a nascere, canzoni che magari impiegano un anno, almeno questo è quello che capita a me. Poi, ma capita anche a tanti altri, secondo me. Sì, anche io tendenzialmente non... forse magari è un difetto, forse è un pregio, non lo so, ma mi fido fino a un certo punto della primissima impressione che ho, mi piace ascoltarmelo, magari faccio... Sei un perfezionista, allora? Assolutamente, sono un perfezionista. Quindi... se ci fosse qua Giulio, il batterista, probabilmente mi direbbe addosso, sì. Ma Giulio non è un perfezionista, anche lui, però è un perfezionista, in un altro senso. Però probabilmente per certi versi è un po' più istintivo. Ah, ho capito. Mentre tu... Però diciamocela, adesso che non c'è, diciamocela chiaramente. Possiamo sempre salutare, che ci sta sentendo via internet sicuramente. Beh, lui poi percuote dei tamburi, voglio dire. Quindi... però sì, percuote dei tamburi. Non me ne vogliono i batteristi, ovviamente, sto scherzando. Giulio è un musicista molto molto in gamba, molto completo, molto... vario ed utile ce ne fossero, tant'è che, guarda, te lo dico, la maggior parte delle volte che scendiamo dal palco vengono, magari per fortuna, a farmi complimenti, ma la prima cosa che mi dicono è: cazzo, che batterista che c'hai, con te che ti accompagna. Ho capito. Benissimo, allora adesso facciamo una cosa di questo genere: suoni un altro pezzo da scaletta che hai prima già prestabilito. Che cosa, Matteo? Vi faccio Santa Pace, che che è la title track. La title track, esatto. Benissimo, perché non so come lo fai in questo momento. Il disco era in una certa maniera, adesso vediamo dal vivo in che tonalità. Ok, benissimo. Vabbè, lei è leggermente trasformata, leggermente, no, non proprio leggermente, lei è trasformata, mi pare giusto che sia così. Ma per una questione di suono, nel senso che la chitarra acustica non può rendere gli stessi effetti di una chitarra elettrica che suona con una batteria. Certo, certo, certo. E quindi sì, sono un po' trasformate, sono una chiave acustica. È bello che sia così, è una chiave acustica che qualche volta usi, mi dicevi. Quando è possibile. In realtà sì, la prima maniera, il primo modo di suonare di Matteo Toni era questo. Ho avuto la possibilità di esibirmi un po' in lungo e in largo, dai posti più infimi a qualche bel club, a qualche bellissima apertura, prima di qualche artista un po' più affermato, e uscivo così, con questa chitarra, la voce, con qualche effettino, il piede, esatto, che one man band praticamente. Sì, esatto, un one man band, e portavo fuori le mie canzoni in questa maniera semplice, una maniera semplice che non è sempre sì, semplicemente accolta così com'è, perché sì, in determinati posti riuscire a farsi ascoltare, bisogna essere più cattivi e a non essere sovrastati esattamente, cattivi nel senso positivo, fare più rumore, questo voglio dire. Hai perfettamente ragione, è vero. Però cominciato, cioè, giustamente tu parlavamo con Matteo a microfono spento, girando da solo, poi con l'ausilio del batterista, le cose sono cambiate, perché c'è stato più suono, più rumore, più compressione, nel senso positivo, e bisogna provarle tutte per riuscire a farsi sentire, quello è importante. Diciamo che la necessità secondaria era quella, la prima sicuramente è stata una scelta artistica, comunque. Certo. Il progetto desideravo che rimanesse minimale come è nato, però l'idea di poter suonare anche con un altro strumento, con un altro musicista. È un'orchestra vera e propria, come mi ha detto all'inizio, una band vera e propria, in due, ma fate esatto, una band, c'è poco esatto da fare. Questo ti dà l'opportunità di poter suonare e di creare dei silenzi quando ne hai bisogno, ma di poter anche esplodere quando c'è bisogno di distruggere. Di energia, con un suono, di energia. Distruggere, esattamente. Benissimo, adesso passiamo, sono quasi le 23, poi avremo una cosetta, un giochino da proporti. Fra qualche minuto, forse te lo svelo a microfono spinto, probabilmente sì. Allora, adesso sentiamo un altro pezzo da disco. Che hai scelto? Che traccia hai scelto, Matteo? Alle 4 del pomeriggio. Benissimo, lo sentiamo allora. L'uomo del mar, dai. Thank you. questa era alle 4 del pomeriggio, perché dopo c'è un altro pezzo attaccatissimo che era alle 4 del mattino. Però adesso ci fermiamo sulle 4 del pomeriggio, assolutamente molto più acustico rispetto ai pezzi che abbiamo sentito prima. Si parla, prima abbiamo parlato, non è giusto parlare del settarismo, del pezzo, della seconda parte dell'album più acustico, è un'altra dimensione, volutamente così, basta, abbiamo già spiegato il perché, perché il testo, le storie hanno bisogno di un fattore acustico, soprattutto in questo pezzo. Adesso c'è il giochino 2301, il giochino che cosa si tratta? I nostri ascoltatori lo sanno da tanti anni, si ascoltano sempre Rockwave e ascoltano sicuramente sempre Rockwave, i quattro dischi da portare su un'isola deserta, a tuo piacimento, come vuoi, le entità che ami, che ti interessano, a tuo, puoi andare, stasera sei solo, quindi non hai probabilità di copiare da altri, sei solo, fai te. Solo quattro, quindi. Facciamo cinque, dai, visto che abbiamo tempo, siamo io e te, cinque su un'isola deserta, a tuo piacimento. Allora, vi devo dire che in realtà questa domanda me l'ha svelata nel... Ci siamo svelato qualche secondo prima. ma tuttora sono qua che ci penso e faccio fatica a pensare a solo quattro, però... Purtroppo l'ora è quella, mezzanotte dobbiamo finire, però io starei qua oltre mezzanotte. Allora sicuramente Catch a Fire, il primo disco... con cui Bob Marley esce il reggae, ami particolarmente il reggae, c'è nel tuo DNA il reggae, al di là che tu hai fatto tanti giri nel mondo. Sì, io mi sono appassionato da subito a questo genere, anche se in realtà l'ho approfondito più avanti. Ma sei stato in Giamaica sicuramente? No, in Giamaica non sono mai stato, sono stato ai Caraibi. Sono stato diverse volte a Barbados, che è un'isola nella zona sud dei Caraibi, molto, diciamo, vicino al Venezuela, per intenderci. Però diciamo che non mi immagino la Giamaica molto diversa da Barbados, probabilmente più varia e più varia a livello di mondo umano, nel senso che Barbados è un'isola abbastanza felice, abbastanza con poca criminalità, dove la gente tutto sommato sta bene. Probabilmente in Giamaica ci sono c'è molta criminalità e ci sono sfaccettature diverse dal punto di vista sociale, certo. Però dal punto di vista musicale siamo vicini, quindi questo album di Bob Marley ti ha aperto certe cose. Sì assolutamente, e probabilmente per tanti artisti adoro o ho amato il primo album, l'album con il quale una determinata band, un determinato artista si sono affacciati al mondo della musica. E quindi Catch a Fire rappresenta, ha in sé tutta quell'energia che avevano questi ragazzi nel volere dire la loro, nel volere dire qualcosa. Ce l'hanno sicuramente anche gli altri dischi, che sono uno più bello dell'altro, però io ho sempre sento in Catch a Fire questo desiderio di volere dire ok, questi siamo noi, vogliamo spaccare il mondo, vogliamo diventare conosciuti in tutto il mondo, anche perché comunque venivano da qualche anno in cui avevano fatto successo in Giamaica, ma non erano riusciti a esportare la loro musica ancora altrove ed erano belli squattrinati. Poi che ti posso dire, probabilmente mi porterai Nevermind di Nirvana. Come mai ti porti Nevermind di Nirvana? Ma perché quella è musica che io ho vissuto in prima persona, certo. Nel senso che hanno fatto parte di un periodo in cui ero adolescente, in cui cominciavo ad andare a vedere i concerti. Tra l'altro li ho visti a Modena nel 1994. Ti ricordi di quel concerto? Certo che mi ricordo. Tutto quanto, chiaramente? No, non tutto, no. In qualche momento te lo ricordo. No, assolutamente non tutto, però mi ricordo l'atmosfera, mi ricordo il fatto che insomma il palazzetto non è lontano da casa mia, mi ricordo gli amici, mi ricordo quello che abbiamo fatto prima, abbiamo fatto dopo, inconsapevole di quello che sarebbe successo, chiaramente, che forse avrei prestato più attenzione, certo, al concerto. Però il grunge e l'ondata di Seattle, l'ondata della West Coast americana degli anni 90 ha avuto diverse cose che ritenevo molto interessanti. Gli Alice in Chains mi sono piaciuti tantissimo. Un altro disco, ci pensavo prima, una band che è sempre, fa parte della West Coast americana, però più a sud californiana, sono i Sublime. Ah, Sublime, riconosci Marco i Sublime? Sì, Marco ha detto assolutamente i sì. I Sublime riuscivano ad unire una vena punk ad una funky, ad una reggae, tutto all'interno di una formazione che era semplicemente un trio, un power trio. Certo. E quindi non è molto diversa dall'approccio che forse possiamo avere anche io e Giulio adesso, chiaramente in altre corde e con altre diciamo tematiche a livello testuale, però l'idea di contaminare e di contaminarsi è sempre piaciuta anche a me, è sempre stata un po' la base della mia musica, come Matteo Toni e anche di Sangria prima. E poi bisognerebbe che mi portassi assolutamente un disco acustico o un disco, insomma, di un cantautore. E qui avevo pensato a Xavier Rudd prima, potrei pensare a Ben Harper, potrei pensare a Nick Drake. Ti direi Nick Drake e ti direi il disco verde, quello... adesso mi sfugge il nome in questo momento. Che ha il Five Leaves Left. Five Leaves Left, esattamente. Quel titolo. Ne ha fatti solo tre, però tutti e tre capolavori. Assolutamente. Tutti spesso e volentieri citano Pink Moon, perché è l'album della fine della carriera di Nick Drake. Sì, in realtà forse io ho apprezzato più quello, più quello che dicevamo prima, Five Leaves Left. È chiaro che entrambi sono meravigliosi, sono dischi immortali, come lo potrebbe essere Grace di Jeff Buckley, per citarne un altro. Tutti pezzi sempre di quell'epoca. Unici, perché purtroppo Jeff Buckley ha fatto solo Grace e poi sono stato pubblicato altre cose, ma purtroppo se n'è già andato. Grace è un epocale, è diventato epocale con il tempo, praticamente. Lo è assolutamente. Sarebbe epocale anche se non se ne fosse andato, certo, così prematuramente. Comunque diciamo che le dipartite più o meno casuali, più o meno volute dei grandi artisti aumentano la loro fama, il loro mito. Assolutamente sì. Benissimo, 23:08, abbiamo parlato del mondo musicale di Matteo Toni. Purtroppo non c'è il batterista Giulio stasera. Non so, secondo te quali entità musicali lui avrebbe scelto? Ma Giulio è un batterista dalla natura super funky. Ah, ho capito. E quindi potrebbe aver citato magari una band, non so, forse un disco di James Brown, magari. Ah, ecco, anche. Appunto. Earth, Wind and Fire o no? No, anche Earth, Wind and Fire. Però è anche un grandissimo amante del Britpop. Ah, e quindi secondo me si sarebbe portato anche un disco dei Blur. Si sono riformati, adesso fra poco sono in Italia in concerto. Infatti hai già preso il biglietto? Io non ci andrò a vederli perché a parte che li vidi già all'epoca festival qualche anno fa. Però non è uno di quei concerti che attendo con molto ansia. Sicuramente se mi regalassero il biglietto, visto che è il giorno del mio compleanno. Appunto. E tu, Marco, hai preso il biglietto di Blair? No, Marco ha detto di no, assolutamente. A Marco non piacciono molto. No, piacevano una volta. Molti... vedi, li ha visti al primo album. Sono passate un po' di acqua sotto i punti, vero Marco? Molta acqua sotto i punti. Ok, benissimo. Adesso facciamo un altro pezzo live, dai. Cosa suoni, Matteo? Vi faccio un brano che si chiama I Provinciali di Nuoto. Ah, perfetto. Arrivo il fischio del primo treno che annunciava tutto. anche se non hai appena veduto la prima volta l'oceano, quando il sudore ti bruciava le labbra, ma abbiamo sentito questo pezzo molto bello. Non c'è la batteria nel disco, c'è la batteria di Giulio che dà un certo vigore, e stasera invece tu hai sostituito la batteria di Giulio con un certo vigore nella parte centrale del pezzo, poi ti sei calmato, l'hai lasciato scivolare. Bellissimo pezzo, aveva degli andamenti folk all'inizio, poi no, poi è cambiato. Secondo me, io l'ho sentito folk. C'è una, dimmi, non so se chiama la ricerca o una spontaneità magari nel mio modo di suonare questo strumento. E ripetiamo come si chiama la chitarra. Questa chitarra si chiama Weissenborn. Esattamente. Apro e chiudo una parentesi importante, anche mi è venuto in mente, Maurizio. Dimmi. E voglio salutare un vostro conterraneo. Sì, liutaio, esatto, che ha fatto questa Ermanno Pascolato, che ha realizzato le chitarre che utilizzo, che abita qui poco lontano, San Pietro Viminario, per cui saluto Ermanno e può darsi che sia all'ascolto, non si sa mai. Io credo di sì. Bene. E ti volevo dire, c'è un approccio che ho avuto più o meno casuale, un po' ricerca, un po' spontaneo sullo strumento, che è questo modo di portare le note basse, quasi come a voler simulare anche la presenza di un basso. Sì. Ed è uno dei motivi per i quali anche la formazione è un duo, proprio perché questo mio modo bassistico mi porta a poter anche pensare di fare a meno del basso. Il modo è un po' questo. Questo. Hai dato una funzione ritmica, che esatto. È fondamentale, essenziale. Esattamente, esattamente. Direi che è perfetto, è perfetto. Il disco è già bello, il disco in partenza. La versione che ne hai dato stasera dal vivo, assolutamente, quindi perfetto, in l'ora giusta 23:16, non c'è niente di prefabbricato, è tutto live. Farina del tuo sacco al 100%, decisamente un'ottima versione. E giusto, dicevamo prima, cambiare, mutare, proseguire, allargare, in modo come un altro per esibirsi live in una radio, in acustico. Certo, chiaramente la possibilità di poter portare il progetto per come lo proponi dal vivo in una radio è sempre un po' più complicato. Esatto. Per cui credo. Però è emozionante, secondo me. No, assolutamente. Credo che la possibilità di proporre le stesse canzoni in una versione molto più simile a quella originaria. Per cui come sono nate, esatto. Sia ugualmente interessante, possa far capire alla gente che ascolta che poi alla fin fine dietro questo disco c'è una persona che suona. In realtà non ci sono robe molto costruite. Tante macchine, esatto. C'è una persona, c'era l'intuizione della persona di Giulio, due persone, o comunque in questa forma ancora più minimale, come dicevamo prima, simile a quella che appunto è stata la nascita. Può essere, insomma, un indice per fare capire qual è l'essenza reale del lavoro, insomma. Santa pace, quanti pezzi ha ancora nascosti che non sono stati per motivi diversi pubblicati? Santa pace ce ne sono 10, però c'erano i 5 delle EP precedenti, quindi 15 pezzi pubblicati, ma Matteo Toni e Giulio sicuramente avrà qualche pezzo nascosto. Ma guarda, in realtà io credo che con Santa pace si esaurisca il primo concept, che era cominciato con l'EP. Un'altra storia da raccontare, allora. Esattamente, sta nascendo qualche cosa di nuovo. Ma musicalmente che diversità ci sarà? È una bella domanda, Maurizio. Ci stiamo lavorando. Per il momento sto cominciando a scrivere nuovi brani voce e chitarra. E ti potrei dire come stanno nascendo, poi non so se effettivamente saranno pubblicati in quella maniera, però certo. Sto pensando di semplificare ancora di più il sound, di estrarre la parte ancora più blues, e quindi più semplice, più minimale, più anche ipnotica del blues, che è quella della ripetizione, della nota ripetuta, della strofa, del trip, potremmo dire. Esatto, del trip, esatto. E fatto con una batteria che sia anch'essa più sporca e più ipnotica. Quindi con dei groove di batteria che possono essere molto simili dall'inizio alla fine, con pochi cambiamenti di ritmo. Questa è un po' l'idea che ho in mente. Poi non so, magari verrà fuori un disco acustico voce chitarra. Non si sa mai. Bene, 23:19, quasi 23:20, mi pare un altro pezzo da disco, e questo è il proseguo, sì, alle 4 del mattino. Marco, adesso lo sentiamolo. Rock Wave Live. Non ci porterà. State ascoltando Rockwave, stiamo piacevolmente conversando con Matteo Toni, parlando del suo disco Santa Pace, e non solo del suo disco, dei suoi progetti, del suo modo di suonare. Questo era un pezzo che sembrava un pezzo orchestrale, ma giustamente Matteo mi faceva capire, è la chitarra che fa tutti questi effetti. Ragazzi, è la chitarra, cioè il suono della chitarra, fatto in una certa maniera, costruito finché volete, però è la chitarra, parte tutto da quello, vero Matteo? Chitarra e batteria. Chitarra e batteria, parte tutto da quello, è dalla base del, appunto, del progetto Matteo Toni, di quello che noi vogliamo portare anche in giro durante i concerti. Bel suono, questo aveva un bel suono questo pezzo alle 4 della mattina, del mattino. Aveva un pezzo, un bel suono quasi orchestrale, ampio, che avvolgeva. Adesso telefoniamo a Cooper e te lo passo e glielo dici. Perché, ha ragione. Perché per come lo dici. È stato Cooper a fare questo. Per come gesticoli è bellissimo. Vorrei che fosse qua per vedere, perché ti vedesse. E sì, in questo brano in particolare, Cooper si è sbizzarrito parecchio. Abbiamo probabilmente attaccato in serie una roba come una quindicina di pedali. Un loop, è un loop continuo. Possiamo dirlo, definirlo loop? Sì, si può anche si definire può. Loop. Si può, possiamo definirlo come vogliamo. Possiamo dire, è una serie di pedali. Ecco, esatto, una catena di pedali. Di pedali. E insomma, ci siamo anche divertiti parecchio. E alcune volte sapevamo quello che sarebbe saltato fuori, la maggior parte delle volte, no, che lui lo dica, non lo sapevamo. Però è piacevole quando le cose vengono bene. Sì, entri subito nel giro. È un modo per poter sperimentare, per poter tirar fuori quel qualcosa che non voglio dire che prima non esisteva, perché ci mancherebbe altro, però che insomma potrebbe essere anche un modo un pochino nuovo di vedere, una sfaccettatura nuova, una un'angolazione diversa per poter fare musica anche. Benissimo, allora, visto che abbiamo poco tempo, abbiamo deciso, io e Matteo e Marco, di far sentire qualcosa dal vivo, ancora qualcosa dal vivo, no? Far sentire ancora qualcosa dal vivo. Che cosa, Matteo? Io avevo pensato di farvi ascoltare un altro brano tratto da Santa Pace che si intitola Fidati. Perfetto. E questo è un brano molto, molto amato, secondo la critica, giustamente, è molto amato. Ti ringrazio. Diciamo che ha la particolarità di essere il primo ad essere stato composto con questa chitarra. Questa chitarra. Me la faccio. Ok. Come cicale nella sole che guarda verso te. Secondo me è decisamente difficile suonare un pezzo simile, anche se acustico, acustico però, l'acustico sentito qua stasera, ma non è proprio prettamente acustico. Nell'album sì, ha una certa atmosfera, possiamo dire che è una combin giusta tra il folk e il blues. Il blues c'è sempre, sì. C'è sempre che gira continuamente. Che bello che è giusto che gira il blues, secondo me, deve girare il blues, perché il blues è alla base di tante cose. Ma sì, assolutamente. Anche se un critico ha scritto è il folk essenziale, sei d'accordo? Il folk essenziale nel senso positivo, proprio scarno, suonato così era molto scarno. Io credo che l'impronta radicale, nel senso semplice, minimale, sia così una prerogativa che puoi portare avanti. Sì, che voglio portare avanti. E quindi... Poi non lo so, ripeto le definizioni che sono state date. Ma è una bella definizione dire folk essenziale, non è una brutta definizione. Si può, penso di sì, folk essenziale. Sì, ci sta. Beh, la versione tua era perfetta, secondo me. Delicata. Poi il gioco è che con quell'oggettino con cui sposti nelle corde, e cari ascoltatori, è una cosa molto interessante anche visivamente, secondo me, molto visivamente, da un certo senso, al suono che viene fuori da questo. Quindi, insomma, non sono l'unico ad essere stato affascinato da questo strumento. No, io sì, sicuramente stasera sono stato molto affascinato da questo strumento. No, effettivamente, insomma, è un... Come ti dicevo all'inizio, è uno strumento che canta, che ha la sua voce e la fa sentire in maniera molto semplice, con un tocco. Tu hai citato Santo e Johnny, sono d'accordo, molti anni fa, ma era un po' diverso, però il concetto era quello. Ma forse. Sì, in realtà se vai ad ascoltare la Sleepwalk si chiamava, sì, il brano che li ha resi celebri. Cioè, esattamente. Se lo guarda, l'ho riascoltato recentemente. Sono andato a guardarmelo su YouTube in un'esibizione del 59. Però, in cui sono giovanissimi, sono stupendi. E lo guardi e sono poi ancora viventi. Sono due fratelli, credo i newyorkesi. Sì, uno esattamente. Suonava la chitarra tradizionale e faceva una ritmica più di accompagnamento, invece c'era l'altro fratello che con questa lap steel suonava in piedi o a sedere, faceva il motivo principale. Ma in Italia sono stati famosi per il tema del padrino, però. Esatto, quello, esattamente. Non so se ti ricordi Marco Santo e Gianni, si ricorda anche. Tra l'altro è una reinterpretazione comunque meravigliosa. Sì, sì, sono d'accordo, però sono stati in Italia col tema del padrino. E forse dopo si specializzarono, sì, in questa serie di film, esattamente, di sonore di film, visto che è andata però bene. Erano dei grandi musicisti, di ottimi musicisti, però sono stati sviliti, come si dice, se mi hai consentito il termine, Marco, dal tema del padrino, che è un pezzo da classifica, però all'epoca si usava anche questo, non insomma, c'è niente la di male. Pagnotta bisogna portare. E la pagnotta bisogna... E ne abbiamo portata tanta pagnotta con quel pezzo, assolutamente, bisogna dire. Facciamo un altro pezzo live, dai Marco, che cosa? E allora, vi potrei fare un brano dal primo EP. E che dopo sentiremo più tardi, il primo EP, che è prodotto da Molteni, sì, questo qua. Prodotto da... E poi c'era un bassista in questo disco, sì, in questo EP. Questo fu realizzato in tre, classico trio, quindi chitarra, basso e batteria. Cimbalino? Con Enrico Staglio al basso, che colgo l'occasione per salutare. E niente. È stato un bel approccio. È stato un bellissimo approccio, una bellissima esperienza. E questo è un brano che è piaciuto anche. Bene, parecchio. Si chiama Leve al Sole. Lo sentiamo. Thank you. ancora il cielo, e qui in cucina lo inviterei per cena. Poi usciremo. Ho sentito da un pezzo dall'EP qualcosa nel mio piccolo, questo particolarmente si chiamava Neve al sole. Sai perché è piaciuto molto secondo me? Perché era molto melodioso, aveva una melodia molto accattivante che attirava immediatamente, al di là del contorno minimale con cui li ha fatta stasera, che come abbiamo già detto più volte, una caratteristica del progetto Giulio e Matteo. Sì, aveva una melodia molto accattivante, piaceva immediatamente, sì, era melodiosa. È una canzone... Una ballad, tra parentesi. Di quelle che forse non escono poi così tante. Comunque mi ha sempre accompagnato sin dall'inizio e riesce forse ad avere un bel bilanciamento fra la visione, l'immagine che crea con la musica, insomma, che forse in una canzone è la cosa più bella a cui si può attendere, insomma. Certamente, certamente. È piaciuta molto, tu la fai spesso in concerto, allora? O no? O non la fai più? No, noi cerchiamo di farla, nonostante dal punto di vista dei live, effettivamente anche un po' per i suoni un pochino più cattivi, più rock che abbiamo adesso, mi capita... raramente di portarmi dietro due chitarre dal vivo, quindi con una chitarra sola rimane uno dei pezzi un po' difficili da fare, proprio perché è preferibile farla in acustico. Quindi quando ci sono situazioni live abbastanza tranquille, allora magari in quel caso la facciamo, altrimenti la facciamo altrimenti si deve la facciamo sentire sul CD. Si deve comprare il CD e si taglia la testa al toro, chiaramente. A proposito di comprare il CD, dai i tuoi riferimenti se uno vuole acquistare proprio fisicamente. Guarda, questo è un tasto un po' dolente perché il CD è distribuito, o meglio era distribuito prima che purtroppo la ditta di distribuzione fallisse poco tempo fa, tra l'altro una grossa azienda italiana molto famosa, e quindi questo è sintomo, è un cattivo segnale, certo, quando anche le grosse colonne portanti di un certo sistema che è stato fino all'altro giorno, che è quello dei CD nei negozi, eccetera, cade. Però purtroppo è così. Altrimenti comunque il CD si può recuperare ai concerti o contattandomi direttamente anche su Facebook, piuttosto che nei negozi digitali e direttamente anche sul sito di Steel Fizzy, che è l'altra etichetta che mi ha dato una mano insieme alla fabbrica a produrre dal punto di vista esecutivo il lavoro. Quindi si può trovare anche là sul sito di Steel Fizzy, sì. steelfizzy.com, oppure anche la fabbrica etichettaindipendente.com. Si può trovare tutte e due, sia Santa Pace sia LP. Esattamente. Benissimo. Ok, allora 23:41, a proposito di disco Santa Pace, tu hai scelto uno dei pezzi che tu ami particolarmente, mi pare, Valentina, mi pare, sì. Il canto di Valentina. Il canto di Valentina, che esatto. È la traccia del disco. Adesso la sentiamo, che è un pezzo che si deve ascoltare e poi si ne deve parlare, assolutamente. Ok. Rock Wave Live. C'era una volta sempre si chiede in vano che mai sarà. Ma perché tu non parli? Nessuno sa. Ma perché tu non parli? Nessuno sa. C'era una volta lei, Valentina, candida e muta come nevicata. E basta solo un tuo sguardo ad illuminare il viso di mamma, anche se non c'è più cibo sulla tovaglia vuota, perché non c'è più cibo nella pancia vuota. Poi ci fu quella volta a cambiare la vita, quando di notte decidesti la fuga. Tuo padre dorme nel suo letto ciondolante, ma lei ti ha sentita. E allora fu la tua anima a proferir parola, e allora fu la tua bocca a cantar parola. Mamma, porta pazienza, pazienza, pazienza. Il mio cuore sta seguendo un baglior. Ogni mio gesto è speranza, speranza, speranza. Almeno fino alla fine di questa canzone, almeno fino alla fine di questa canzone. Di una donna, le sue poche parole furono lacrime prima, ma poi pian piano gocciolarono e riempirono la tavola vuota, perché l'unico cibo ora è il canto di Valentina, perché l'unico cibo ora è il canto di Valentina. L'evidenza non è sempre tutto ciò che sembra, più di quanto immagini io vi ho amato. Mamma, lascia che corra per le strade della vita. Ora lo sai che tutto questo è amore, almeno fino alla fine di questa canzone. Mamma, porta pazienza, pazienza, pazienza. Il mio cuore sta seguendo un baglior. Ogni mio gesto è speranza, speranza, speranza. Almeno fino alla fine di questa canzone. Almeno fino alla fine di questa canzone. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, non abbiamo ancora finito, Marco, mancano ancora una decina di minuti anche per te, Matteo. Siamo ancora qua. E adesso, visto che abbiamo poco tempo, il pezzo era molto bello, questo è un canto, proprio canto, vero? Proprio lo puoi sintetizzare in 10 secondi, se ce la fai? No, è una spiegazione veloce ai nostri ascoltatori. Non credo che ce la farei, mi fa piacere che ognuno si faccia la propria idea di, diciamo, quando ascolta il pezzo. Sicuramente si può dire che Valentina è una figura che esiste veramente e che questa storia che si racconta nel brano non è molto diversa da quella che è successa realmente. Quindi mi piace nei brani, quando posso, quando riesco, raccontare delle storie. Le storie vere. Più o meno vere. Vicino alla realtà, possiamo dire. Vicino questo. Alla realtà, e sono sempre vicino alla mia. Esattamente. Adesso siamo vicinissimi alla realtà perché suoniamo Capitano, che è un altro pezzo dall'album, assolutamente dal vivo, sono le 23:50, ancora qualche minuto, ma sempre dal vivo a Rock Wave. posso dire un blues del Delta incorniciato dalla tua voce bellissima, secondo me ha fatto un'ottima figura decisamente questo pezzo, Capitano. Sono le 23:54, adesso abbiamo deciso io e Matteo di far questo, dicendo a Marco di far sentire il pezzo che ha scritto Molteni dalle P, mi pare quello che hai scelto. Fu così che quando decidemmo tutti insieme, insieme a Umberto, di portare avanti questo lavoro, un bel giorno venne alle prove ad ascoltare i brani e Umberto disse: Matteo, ho un brano per te. Per te. Ho tirato fuori dal mio cassetto questa cosa che secondo me potrebbe essere perfetta per questo lavoro, io te lo regalo. E quindi è nata così Tutti i miei limiti. Che è stata dall'idea di voce e chitarra di Umberto Giardini, che allora usciva ancora come Molteni, è stata arrangiata con anche la slide, quindi la chitarra Weissemann, un basso e una batteria. E quindi è uscita la canzone dell'EP. È uscito bene, adesso la sentiamo allora. Rock Wave. Rock Wave Live. Rock Wave Live. Umberto Maria Giardini e Matteo Toni, un'ottima accoppiata, cosa dici Matteo? Decisamente. Ah, grazie, tra l'altro abbiamo avuto da ottobre scorso che è uscito il disco la possibilità di aprire ormai 5-6 dati di Umberto e sono sempre serate piacevolissime, ci divertiamo molto, è a mio avviso un bello spettacolo, e lui è un grande artista, si può fare. assolutamente io un po' sfortunato, possiamo dire questo qualche volta, ma non lo so, insomma credo che beh, è stato un percorso da seguire. Esatto, credo che lui faccia un genere di nicchia che non può piacere a tutti, e forse la sua forza è anche quella, la sua potenza è anche quella, di riuscire a toccare magari solo il cuore di qualcuno, per cui non ha probabilmente una visibilità così totale. Comunque va, ce lo teniamo per noi. Certo. E a proposito di visibilità, che date, hai qualche data in vicine, Matteo? Allora, fammi un po' pensare. Sì, direi proprio di sì. Suoneremo venerdì sera prossimo ad Ancona, e poi suoneremo la prossima settimana, il giorno di Pasqua, a Milano. Mm-hmm. E poi suoneremo a Bologna invece il venerdì prima di Pasqua. Comunque, siccome ho una pessima memoria, invito, cerchiamo nel sito, eventualmente più che nel sito è più facile sulla pagina di Facebook. Perfetto. Che è sempre aggiornata. Benissimo, adesso terminiamo, grazie a Marco Borgato. Grazie, è stato Marco, il valentissimo regista che ci ha portato fino alla mezzanotte. Grazie a Matteo Toni e la sua, che ci ha presentato Santa Pace. Salutiamo anche il nostro batterista Giulio. Grazie Giulio, che è sempre con me anche quando non c'è fisicamente, e anche il fonico, che ha collaborato ampiamente, grazie, assolutamente, alla stesura dell'album. Con cosa terminiamo, Matteo, stasera? Stanotte ormai? Vi faccio Acqua del Fiume. Benissimo, grazie a tutti, buonanotte. Domani ci sarà Agostino con Andrea Sbarbati, un musicista sempre dalle tue bande, che viene a suonare anche lui. Buonanotte a tutti e grazie. Yeah.